Spegnete i vostri televisori, spegneteli ora, spegneteli immediatamente, spegneteli e lasciateli spenti, spegnete i televisori proprio a metà della frase che vi sto dicendo adesso, spegneteli subito! 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Continuando in questo passo perdiamo tutti gli iscritti, ne abbiamo persi 400.000, ormai ce n'ha più Sky, le tessere, ce n'ha più tessere Sky che il PD, che tra l'altro rispetto al PD Sky c'ha anche più contenuti, porco boy. Ragazzi, non è che se mungi le vacche cinesi viene fuori il latte di mandorla, eh? E che contenuti a Sky, che contenuti, che contenuti. Questa gliel'hai suggerita tu, Paola Saluzzi a Crozza. Buongiorno. Gliel'hai suggerita tu, sì, c'ha più tessere Sky del PD. Ho fatto il ghostwriter, ho detto, senti, io te lo metto lì sotto banco la battuta, tu dilla, mi raccomando. Buongiorno. Ha più tessere Sky del PD. Oh, buongiorno Paola Saluzzi, come sta? La nostra rossa. La nostra rossa. Pronti come ogni mercoledì. Ogni certo. Mercoledì noi siamo qui. Noi aspettiamo il mercoledì per essere presenti in questo appuntamento imperdibile. Oh. Con il grande Alino Milan. Che bello. Abbiamo fatto uno scambio, no? Oh, mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Questa è 24 mattino, sono le 6:29 minuti. Evviva, iniziamo sempre più presto, eh. Abituatevi, adesso accendete, spegnete i televisori, come dice, e accendete non alle 3 del pomeriggio, ovvio. E qui è 24 mattino e saluto Lorenzo Nespoli in redazione con il nostro alpino Peter Bescapè in regia. E beh, c'è anche il direttore di Vanity Fair, Luca Dini, eh? Eccolo. Buongiorno. Grazie dell'anticipo. Sì, ti vogliamo far dormire un po' meno, mi sembra giusto. Sì, esatto. Allora, posso andare a suonare il campanello a Miriam Lucchetti? Sì, sarebbe un'ottima cosa andare a suonare a Miriam Lucchetti, che se la dorme e si presenta in redazione. Siete pestiferi, posso dirlo, pestiferi. Si presenta in redazione ormai non prima delle 9:39:40. Allora, apriamo subito il nostro Parlamento. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Anche perché vorrei coinvolgervi in quello che abbiamo fatto, questa sorta di contest, questa sorta di appello trasversale a radio concorrenti. Da tre giorni abbiamo aperto questa battaglia che vinceremo noi sicuramente, che risponde al nome di Free Rossella Brescia. Noi vorremmo avere una volta qui al Parlamento Rossella Brescia, che salutiamo ovviamente con tanto trasporto e affetto, ma RDS, quei mascalzoni, non dicono che no, insomma non si può, Rossella Brescia. Allora dai, Luca Dini, tu che con RDS tra l'altro avete un ottimo rapporto, fai per favore un appello per liberare Rossella Brescia. Assolutamente, liberate Rossella Brescia e portatecela al Parlamento. Oh, dai RDS. Dai RDS, forza. E detto al direttore di Vanity Fair, guardate che ha il suo effetto, ha il suo peso. Forza Paola Saluzzi, dai, anche te, di qualcosa. Ma aprite le porte, fate uscire quella meravigliosa ragazza che è Rossella Brescia, fatela venire a Radio 24 una volta. Anche due, anche tre. E che ve costa? Anche cinque, anche sei. È radio. Insomma. È radio. Insomma, se no, che dobbiamo fare? Dobbiamo andare a rapirla, no? Non è che possiamo fare così. Va bene, il nostro appello anche oggi è stato fatto. Vediamo se sortirà effetti. presto o se ci metteranno una testa di vitello sulla porta di Radio 24. A quel punto mi fermerò e capirò che i nostri appelli devono cessare. Allora, avete sentito che Matteo Renzi, molto guascone, come ha trattato i sindacati. Ragazzi, oggi ci sono delle battute al vetriolo che Renzi ha riferito a tutti i sindacati che sono stati convocati ieri alle 8 del mattino, no? La migliore è stata: sì, parlate, tanto qui guardate che Padoan è interessato per Roma-Juventus, è l'unica cosa che oggi lo interessa, il risultato della partita. Questo è stato l'esordio, caro Lucadini, li ha accolti così. Poi dopo la Camusso ha detto: perché presidente non ha convocato come presidente di turno dell'Europa la Confederazione Europea dei Sindacati? E Renzi ha detto: che è? Il sindacato europeo, guardi, già così io gli cambierei subito il nome. Questa è stata la seconda battuta. E poi ad Angeletti, che gli ha detto: vorrei meno sindaci a corpi comuni, io vorrei meno sindacalisti, non meno sindaci, gli ha detto Renzi. E questo è stato il clima per un'ora, un clima soave, caro direttore. Che dobbiamo fare? Che dire? Questo è. Beh, devo dire, insomma, la reputazione dei sindacati è quella che è, non è tutta colpa di Renzi, diciamo. Questo sì, però qua si fa capire che, insomma, li ha ricevuti in un'ora, non gli ha dato molto più spazio. Non lo so, è una questione di metodo. Poi, per carità, molti italiani approvano, altri disapprovano, i sindacati ovviamente disapprovano. Tu, Saluzzi, faresti così, oppure quelle belle concertazioni di ore? No, concertazioni di ore no, è stato un incontro un po' più lungo, devo dire, di un'ora. Quindi, insomma, rispetto alla tabella di marcia che si erano dati, è durato un pochino di più e non ci si aspettava niente di diverso, insomma, a livello quantomeno di scambi di battute e di cortesie. L'importante, come sempre, io poi vi ho spietato ottimismo, è che al di là delle battute che possono anche starci, facciano. L'importante è che facciano. L'importante è che uniscano, anche cosa abbastanza complicata, però avvicinino le tesi l'uno con l'altro e che si arrivi ad una strada da intraprendere, perché ribadiamo una cosa, visto che siamo al Sole 24 Ore, sì. Quel fate presto, quel titolo ormai è vecchio. Certo, anche perché qualche anno fa... Però per averlo messo con tanta forza qualche anno fa bisognava fare presto, quindi fate presto, che non vuol dire fare male, quindi scambiatevi le battute, litigate, discutete, non vi invitate a cena, non sarete compagni di viaggio piacevoli l'uno per l'altro, fate presto. Allora c'è un appello da parte di Massimo: liberate Paola Saluzzi e mandatela a casa mia. No. Dai, Radio 24, dai, una volta Massimo, potremmo una volta, come Rossella Brescia qui al Parlamento, una volta potremmo farlo con Massimo. Abbia fede, cominci a fare i suoi appelli. Intanto è finita anche in musica. Io vi devo chiedere veramente di immedesimarvi ora un po' nei giudici di X Factor, ecco, diciamo così, perché voi non ci potete credere, ma già ieri la Camusso aveva lanciato questa idea, no? Ci riceve un'ora come la famosa un'ora sola ti vorrei. No, è vero, l'ha detto, è vero, ricordo questa canzone. E non sa che cosa ha scatenato la Camusso, perché ma sembrava finita lì, no? Dico. E invece quel guascone di Renzi l'ha presa alla lettera, ha detto un'ora sola ti vorrei. A me viene più in mente Edoardo Bennato: una settimana, un giorno. Una settimana, un giorno, solamente un'ora, a volte vale una vita intera. Il tempo passa. Un'ora a volte vale una vita intera, non male. Lo scambio del giubbotto. Sì, però, ho capito, ma uno dice: vabbè, è finita qui, Renzi, si sa. No, Padoan, Cioè, Luca Dini, sai che ha fatto Padoan? No, non lo so. È andato in conferenza stampa e ha detto: oh, immaginate il ministro dell'economia in giacca e cravatta. A me ricorda più 4 minuti del rapper Mondomarcio. Ma io me ne accorgo sempre. Sì. Ma che è il Festival di Sanremo, no, o, allora la concertazione a Palazzo Chigi? Adesso, allora era già partiti da mille giorni. Sì, da Baglioniana convinta. Certo, anche già partiti con i mille giorni. No, vabbè, certo. Ma giuro, non è che è uno scherzo. Padova veramente ha tirato fuori questa cosa. Mondomarcio. Intanto, caro Luca, subito urge investigare sui gusti musicali del ministro dell'economia. Vabbè, sì. Grazie Peter, grazie. Siamo al delirio. Luca, dici, intanto dacci un voto sulle musiche, insomma, cosa, qual è la scelta? Vince Padoan, sì, perché il contrasto è anche, cioè ve lo immaginate, il ministro dell'economia Mondomarcio, no? È fantastico. Beh, però è la mia preferita delle tre, diciamo. È la tua preferita. Tu, Paola Saluzzi, chi dici? Un'ora sola ti vorrei. Eccola là. Sì, vince il romanticume. Baglioni innanzitutto arriva a pari passo con mille giorni di te e di me. Un'ora sola ti vorrei. Dai, Baglioni, ma... mamma mia. Perché? Oh. Ma guardali. Ma lo ascoltavo a 12 anni. Su Baglioni. Dai, avendone 16. Sì, no, vabbè, ho capito, ma dai. Baglioni, ma... vabbè, questa è la vincitrice. Vabbè. Il Paola Saluzzi, mentre Luca Dini ha detto Mondomarcio, ma noi abbiamo scelto Paola Saluzzi. Così, per cavalleria, direttore. Per cavalleria. Solo cavalleria. Comunque, davvero, insomma, siamo alle citazioni musicali. Vorrei capire invece una cosa, un vostro pronostico, perché in realtà c'è il dubbio che succederà oggi al Senato, visto che Renzi ha detto non temo nulla, ci sono un po' i vari dissidenti che come al solito si fanno sentire. Che succederà, caro Luca Dini? La solita, così, soliti rumoreggiamenti che poi finiscono in nulla alla fine? Io credo di sì, come sempre, come al solito negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, io credo che alla fine la sfangherà. Secondo me anche, ormai sono dati per 4 o 5 quelli dissidenti, una sarà la senatrice Ricchiuti, forse, che sarà nostra ospite alle 8:15, chi lo sa. Tu, Paola Saluzzi, che dici? Poi c'è Corradino Mineo che sempre, insomma, è in subbuglio, dice forse lascio il partito, ma mi sembra che siano così fuochi di paglia, cioè voci isolate, o no, Paola? Ci sarà dissenso palese. E ci sarà il voto. Il sì, perché in questo momento non c'è una non credo che nessuno voglia pensare di far cadere il governo in questo momento e di andare di conseguenza a successive elezioni. Sì. Sicuramente ci sarà il dissenso, però chi lo vuole esprimere lo farà. Tieni conto che da Torre lo ha già detto, come Bersaniani. Possono essere minoranza, possono non essere d'accordo, però alla fine voteranno, quindi forse ci saranno singole persone che si staccheranno dal partito, probabilmente sì. Allora chiudiamo questo argomento con Crozza, dai, ancora Crozza, dopo aver detto che il PD ha più o meno tessere di Sky. Ma nel mio condominio, per decidere se sostituire la grondaia, andiamo avanti per mesi e lui ci mette un'oretta. Era più uno speed date, sai? Ciao, mi chiamo Susanna, sono del Leone, mi piace fumare, adoro gli intilimani e ho 33 anni di contributi. Mi spiace, siamo incompatibili, ding, la prossima. Ecco, non male, lo speed date. L'hai mai fatto, Paola Saluzzi, uno speed date? No. Quello che no, hai 30 secondi, no. È geniale. Mi piace fumare, adoro gli intilimani. Vedi, continuiamo con la musica. Subito, mi spiace. pace, siamo incompatibili, di Renzi. Vabbè, vabbè, vorrei farvi invece, vorrei buttarvi su questo tema che oggi sui giornali è molto sviluppato da tutti dopo la questione di Alfano. Alfano ha detto no alle nozze gay, tutti i comuni che trascrivono le nozze gay all'estero e li trascrivono nei propri registri civili sono comuni che sbagliano. E da qui si è innescato un dibattito, insomma. Noi avremo ospite anche il sindaco di Bologna alle 8.45, Virgilio Merola, che ha detto per me quella di Alfano è carta straccia come circolare. Qui però c'è sempre il dibattito, Luca Dini, ma è possibile che laddove non ci sia una legge ognuno faccia un po' come gli crede? Beh, il problema è quello, diciamo che quello che i sindaci come sempre buttano il cuore oltre l'ostacolo, però quello che ha detto Alfano in realtà è semplicemente che la legge non c'è. Il problema è che la legge non c'è, questo Parlamento non l'ha fatta, anche se gli italiani la vogliono, insomma. Né questo né quelli precedenti, cioè, è ora di fare una legge. È ora di fare una legge, beh, sai, molti italiani non la vogliono, però tu dici che invece la maggioranza... Ma sono molti, molti di più quelli che la vogliono, assolutamente. E su questo, insomma, è il solito dibattito un po' così, un po' all'italiana, dai, diciamolo francamente, perché adesso che il ministro dell'interno dica non valgono niente, i sindaci dicono non vale niente la sua circolare, adesso non lo so... Sì, no, non fa molto bene all'immagine... A far chiarezza, non serve a far chiarezza tutto questo, nel senso a chiarezza nella testa della gente, che credo abbia appunto già chiara l'idea che non essendoci una legge sia spetti a ciascuno, diciamo anche lì, non è che spetti a ciascuno per simpatia o antipatia, ma esista già una regola non scritta, allora farla diventare regola. Nell'uno o nell'altro, farla diventare regola. Infatti no? Alfano ha proprio sottolineato questa cosa, cioè la legge in Italia non consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Sentiamolo. Se ci si sposa tra persone dello stesso sesso all'estero, poi quei matrimoni non possono essere trascritti nei registri dello Stato civile italiano per il semplice motivo che non è ammesso dalla legge, non è consentito dalla legge. Era a RTL. Effettivamente, Luca Dini, la questione è proprio questa. Cioè, in Italia si crea con la registrazione nei registri dei comuni una situazione di fatto fuori legge, perché persone dello stesso sesso non si possono sposare in Italia, piaccia o no, è così allo Stato. Ora, come se ne esce da questa situazione? È come quando i tribunali decidono su ricorsi di persone che vogliono andare contro una legge, il tribunale decide in un modo e la legge decide invece stabilisce un'altra cosa. Beh, sono le forzature necessarie a volte per progredire. Se pensi alla legge 40, che era insomma un obbrobrio, sono stati i tribunali a smantellarla pezzo per pezzo. Non totalmente, ma quasi. Quindi a volte sono davvero forzature necessarie. Poi rimane il fatto che la legge è necessaria e posso aggiungere anche che forse Alfano avrebbe anche qualcos'altro da fare. Insomma. Sì, sì, vabbè, ecco la zampatina, problema. La zampatina ogni tanto del direttore c'è, la zampatina. Sì, la questione però, le forzature necessarie, e qua il dibattito è molto aperto, cara Paola Saluzzi, perché per molti invece i tribunali, per esempio, non dovrebbero arrogarsi in qualche modo il diritto di stabilire con sentenze una legge, di fatto la legge la fa il Parlamento, no? La sensazione, sai qual è, Alessandro, direttore, che si parlino due paesi diversi tra loro, cioè la politica parla ai tribunali come se le regole per entrambi non fossero state date da una linea anche politica, no? Cioè, se tutto questo esiste, se i tribunali possono fare non come gli pare, perché detto così suona proprio brutto, ma se i tribunali possono decidere, possono prendere una decisione, possono emettere una sentenza, quello fanno i tribunali. Sì. Lo possono fare perché qualcuno ha scritto che i tribunali possono emettere quella sentenza. No, certo. Cioè, è come se si parlassero sul pianerottolo una persona con una lingua e una persona con un'altra. Cioè, questa è la cosa che non per fortuna, di fronte a situazioni di questo genere, deve trovare chiarezza, perché questo è quello che si richiede, perché è come quando io sento dire da parte della politica il problema della burocrazia, Ma santi nomi, ma se non la risolvete voi, il problema della burocrazia, e aspettate che ve lo risolva il signor Antonio che vive, che ha aperto adesso l'edicola, no, cioè è come se si parlasse di un altro mondo che parla di un altro mondo. Mm. E in tutto questo mi fate fare una notazione che, voglio dire, chi più di voi è attento anche a queste cose. In tutto questo abbiamo una guerra, un'anima nera che si sta espandendo in tutto il mondo. Sì. Abbiamo una popolazione che un tempo è stata gasata, poi è stata massacrata, sto parlando dei curdi, adesso aspettano ancora che gliela ammazzi qualcuno, e abbiamo gente che poi si alza e dice ora serve un intervento di terra. Su questo guarda, io due giorni fa non ci sono più. Due giorni fa ho proprio visto un documentario su Sky, questa volta non lo cito per piaggeria, ho visto un documentario su Sky dell'ISIS, ma tra poco magari ne parleremo, dopo il traffico. Nostra Brescia è buona. 24 mattino. I lavativi di Stato, 1 milione di statali a casa domattina, nuova riforma. Questi fannulloni che non fanno niente tutto il giorno vanno a fare shopping con i nostri soldi, i delinquenti. Dai Milan, toglimi questa curiosità, te che parli sempre di zappa, veramente hai mai zappato un filare di carciofi, di pomodori, un filare di non so di che cosa, di insalata? Ma lasciate che giocano per 90 minuti, che la gente si diverta almeno per 90 minuti, ma possibile? Contro Roma, Inter e Toro sono ammesse tutte le armi, anche quelle nucleari. Va tutto bene, purché siano annientate questi tre nemici radicali. Buongiorno da Alino Milan. Comincia la 2857esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Questa non è male, devo dire. Questa è la più bella. Questa non è male, con il colpo di tosse pure. Vabbè. Buongiorno. Buongiorno. Effettivamente spero a quell'ora di fare dell'altro e di lasciare, come dire, il microfono ad altri. Però non è male, com'era la 2800 e rotta decisiva. Allora, sì, io due giorni fa ho visto questo documentario sull'ISIS che è passato su Sky. Devo dire, da qualche giorno faccio anche un po' di polemica su Twitter, no, mi danno del Magdi Allah, mio figurarsi se sono Magdi Allah, ma cioè, eccetera. Però dico, cari occidentali, cari italiani, noi, cioè, non è il caso che apriamo un pochino gli occhi? Io non ho nulla contro l'Islam, non ho nulla contro i musulmani, sono 1 miliardo, quasi 2 miliardi di persone, ci mancherebbe, il 99,9% sono persone per bene. Ma mi chiedo e vi chiedo, esiste un problema legato ad alcune persone che interpretano quella religione in modo, come dire, evidentemente sbagliato? Io ho visto in questo documentario padri dire ai bambini di 10 anni lì nello Stato Islamico: perché noi uccidiamo gli infedeli? Dillo, perché sono impuri. Allora io, Luca Dini, non conosco, lo ribadisco, nel 2014 un cristiano, un buddista, un ebreo, un induista che dice dobbiamo uccidere quello là perché è un impuro, un infedele. Questa cosa ti sembra un po'... Anche... No, c'è un problema, è evidente che c'è un problema. E c'è, per aggiungere, c'è anche un problema di moderati che parlano, ma non parlano abbastanza e non hanno peso e non hanno voce. Quel 99,9% che tu dici non ha peso e non ha voce. Non li vedo. Anche poco. Ecco, non li vedo in piazza, manifestazioni, cioè fate qualcosa per farci capire che quelli lì sono dei pazzi isolati da circoscrivere, da limitare, da fermare. Paola. Sono pazzi da limitare, da circoscrivere, da fermare, e lo deve fare sicuramente anche la comunità islamica, perché c'è un Islam che non ha niente a che spartire con quell'atteggiamento medievale e folle, ma è un atteggiamento medievale e folle armato di Kalashnikov. Allora dico Kalashnikov per dire una marca, è armato di armi perché se no non sarebbe armato, ed è armato di intenzioni che sono le peggiori che possiamo immaginare. Quindi non soltanto le comunità, non soltanto spiegare che cosa voglia dire credere in un Dio che non dice niente di quello che questi dicono, ma a livello mondiale alzare le antenne. Perché ieri dicevo a chi soavemente faceva finta di nulla che quando hanno sollevato la sbarra il primo settembre del 1939 in Polonia, e siccome della Polonia non gliene fregava niente a nessuno, da una parte e dall'altra, che la invadessero pure, così si liberavano di un po' di soggetti, poi sono stati 50 milioni di morti. Voglio dire, cioè, chiudere gli occhi o fare quel relativismo, quel perbenismo a dire ma no, ma sono semplicemente la Turchia, cioè dice ci vogliono gli interventi di terra, la Turchia. No, ma non bisogna né esagerare ma neanche sminuire come se fosse una cosa, ma sì, non abbiamo nessun problema, sono quattro pazzi. Le bandiere in Libia, allora le torri gemelle ce le ricordiamo, no? Perché certo. Poi il rischio qual è? Che l'Occidente si accorga drammaticamente del problema fondamentalmente solo quando vanno ad ammazzargli i suoi. Questo è un po' un dato di fatto. Se le persone al cui hanno staccato la testa non sono abbastanza, ribadisco, c'è una popolazione, i curdi stanno, e non stiamo parlando di santi in terra, nessuna popolazione è santa, ma quelli stanno morendo, li stanno massacrando. Ma e sì, noi che parliamo noi tanto di suicidi e di olocausti, e giustamente, guai a non parlarne, stiamo facendo fare. Sì, e poi ricordiamo, hanno ucciso degli occidentali turisti, persone che erano andate anche lì a fare soltanto perché occidentali, e quindi allora, infedeli, oltre che ovviamente provenienti da paesi che stanno facendo dei raid, ma cosa c'entra prendersela con un turista francese in Algeria? Ecco, per riempire le piazze. Va bene, dovremmo, ma io riempirle insieme a loro. Ecco, devo chiudere, devo solo dire che c'è la copertina con chi è Carolina Curcò? Va, caro Luca Dini. Una modella. Sì, è una modella. È una modella, sì. Come al solito, il solito numero di telefono, se puoi, poi fuori onda. A parte. È la copertina di Vanity Fair che trovo molto, molto corposo oggi, tantissimi argomenti. C'è anche un bellissimo servizio di Giuseppe Cattozzella, ve lo segnalo, scrittore da Mogadiscio, città considerata la più pericolosa al mondo. Ma mi devo fermare qui. Grazie a Luca Dini, Paola Saluzzi alle 3. Buona su giornata. Sky, quelli che hanno più tessere del PD. Grazie. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:18, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali con voi e per voi, e vi ricordo che oggi parleremo di riforma del lavoro e di fiducia. Ci sarà o no la fiducia? Pare proprio di sì, ma insomma ne discuteremo con uno dei deputati, la senatrice Ricchiuti del Partito Democratico, che è considerata più in dubbio nel voto. Sono 4-5 i senatori del PD che potrebbero non votare la fiducia, anche se Renzi dice non mi aspetto nessun tipo di sorpresa negativa. Parleremo anche con il sindaco di Bologna, Virgilio Merola, sarà nostro ospite alle 8:45. Lo avete sentito, il tema è quello dei matrimoni gay, perché Alfano dice non possono essere registrati, e il sindaco di Bologna, che è una delle città dove vengono registrati i matrimoni gay contratti all'estero, dice io non rispetterò la circolare del Ministero dell'Interno. Ci sarà anche Claudio Velardi con noi per parlare del tema riforma del lavoro, questo dalle 8:15. Ora andiamo a leggere i giornali. In questo mercoledì 8 ottobre, intanto i titoli in prima pagina sul Sole 24 Ore troviamo il Jobs Act alla prova fiducia, articolo 18, si rinvia ai decreti, questo è il titolo di prima pagina, mentre per la Stampa incentivi sui nuovi contratti, Jobs Act oggi il voto di fiducia. Repubblica, Renzi, sgravi per chi assume, fiducia oggi, battaglia in aula. Il Messaggero, Renzi alla conta sul lavoro. Il Corriere della Sera, si vota ma senza l'articolo 18. Mentre alcuni giornali aprono proprio sulle nozze gay, come il Secolo XIX, nozze gay, la mina di Alfano. Il Manifesto mette invece in prima pagina la foto di Alfano e il titolo è questo, il maschio angelino. Mentre per il Fatto Quotidiano Renzi spacca i sindacati ma va giù nei sondaggi. Il Giornale invece, Napolitano, non conta più. Schiaffo dei PM, i boss di mafia possono assistere al suo interrogatorio. Libero invece si concentra sulla, rapporto Migrantes, non è un paese per italiani, più emigranti che immigrati, questo è il titolo di prima pagina. Avvenire invece, l'attualità internazionale, soprattutto in Siria, blitz jihadista, rapiti 21 cristiani, questo è il titolo di prima pagina di Avvenire. Un'altra delle emergenze invece su cui si concentrano molto i giornali è l'Ebola. L'Ebola che da quando è sbarcata in Europa, primo caso accertato un'infermiera in Spagna, certamente fa più paura. Come tutte quelle cose che mietono molte vittime, ma finché sono un pochino lontane geograficamente, in questo caso erano circoscritte in Africa, fanno meno paura. Ora si avvicina e fa evidentemente più paura. A Madrid sono 4 i ricoveri per Ebola, così titola il Corriere della Sera, che va a intervistare con Andrea Nicastro l'infermiera che ha contratto il virus e dice: mi sento un po' meglio, non so come ho preso il virus perché io ho seguito il protocollo. È Teresa Romero Ramos che è venuta in contatto con un missionario che poi è morto, veniva dalla Sierra Leone ed è morto poi in Spagna per Ebola appunto, e dice va meglio, diciamo va un pochino meglio, ma non saprei dire come è avvenuto il contagio, non ne ho proprio idea, io ho rispettato il protocollo alla lettera. Si sente affannata, si sente stanca. Non ti è mai successo qualcosa per cui avresti dovuto preoccuparti? Direi proprio di no, risponde lei. In realtà Repubblica, che anche lei sguinzaglia come quotidiano il suo inviato in Spagna per raccontare il panico, anzi lo shock, questo è il titolo di pagina 14, che c'è in Spagna visto che ci sono altri 2 casi sospetti. Beh, Repubblica racconta che nel quartiere dove l'infermiera Teresa si è ammalata, si vedeva che stava male, è stata vari giorni con mancanza di controlli e con febbre molto alta. Ora lei fa anche l'appello dicendo: non abbattete il mio cane, perché le autorità di Madrid hanno deciso di sopprimerlo, non possiamo correre rischi. Per cui c'è anche il dibattito che si è innescato con lei, che è guarita adesso, ma dice: non abbattete il mio cane, mentre le autorità sanitarie della Spagna vogliono abbatterlo perché dice così rischiamo altrimenti di propagare il contagio. E comunque insomma si sapeva nel quartiere che stava male. A questo si aggiunge anche una intervista che Libero su questo tema mette a pagina 11. È un'intervista a Lucia Della Bartola e Massimo Pagliai, sono due italiani che hanno fondato un'associazione a Vignola, il nome dell'associazione è Non Basta un Sorriso, una Onlus. Il loro scopo è costruire una scuola per 210 bambini a Kinshasa e dunque nella Repubblica Democratica del Congo. Sono tornati dal Congo e dicono: nessuno ci ha visitati. A pochi chilometri da noi in Congo sono morte 167 persone, ma al ritorno in Italia niente test e siamo rimasti anche abbastanza sorpresi. Insomma, questi controlli ci sono sull'Ebola, possiamo stare tranquilli. Il ministro Beatrice Lorenzin, ministra della Salute, fa un'intervista a Repubblica, a pagina 15, intervistata da Michele Bocci. Il titolo è questo: l'Europa deve intervenire ora, più controlli negli aeroporti, per l'appunto. In Europa i controlli su chi viaggia in aereo dovrebbero essere più stringenti. Beatrice Lorenzin ha chiesto che sia convocato il Consiglio di Sicurezza dei Ministri della Salute della Commissione Europea. Vuole che si cambino le regole per prevenire l'Ebola nel nostro continente. Dice: è necessario che le procedure adottate sui voli e aeroporti ci diano una maggiore certezza dei giri che fa chi arriva da paesi a rischio. Se una persona parte dalla Liberia, passa da Londra e poi a Francoforte, poi arriva in Italia, perdiamo le sue tracce. Questa è la posizione, è corroborata anche da questa intervista dei due signori rientrati dal Congo. Dicono: lì in Congo sono morte molte persone, quando siamo arrivati in Italia nessuno ci ha fatto nessun tipo di controllo. Dice Beatrice Lorenzini: in questo momento in Sierra Leone abbiamo 49 italiani, in Liberia 36, in Guinea 57, sono in tutto 142 persone, metà delle quali sono impegnate proprio contro l'epidemia. Poi sulla domanda: la malattia può arrivare coi migranti? È improbabile, risponde il ministro Lorenzin. Chi viene nel nostro paese via mare affronta un viaggio lungo durante il quale, se la malattia c'è, dovrebbe manifestarsi. Inoltre, tutti coloro che arrivano vengono visitati e poi stanno nei centri, sono molto controllati. Beatrice Lorenzin, ministro alla salute. L'altro tema, come detto, e ce ne occuperemo alle 8:45 con il sindaco di Bologna Merola, è il tema di Alfano e le nozze gay. Il diktat di Alfano: cancellate le registrazioni ai comuni che registrano le coppie omosessuali sposate all'estero. Arriva la circolare del ministero ai prefetti. E i sindaci, primo fra tutti proprio Merola, ma anche il sindaco di Udine, che viene intervistato da Repubblica pagina 12, dice: per me quell'ordine è carta straccia. Eccolo qui, Furio Onsel, sindaco di Udine: come sindaco rispondo solo ai cittadini. La circolare di Alfano è un atto burocratico, inutile, che per me non ha valore. Queste coppie sono legalmente sposate, anche se all'estero, sono una famiglia. Perché non riconoscerle? E qui si instaura il dibattito sulle coppie gay. Tra l'altro, il manifesto intervista con Carlo Lania a pagina 3: la prima coppia gay sposata all'estero è registrata a Latina, Antonio Garullo e Mario Ottocento. Dopodiché il loro matrimonio è stato cancellato dal registro perché, dicono, era contrario all'ordine pubblico. Qui si gioca sulla nostra pelle, dicono in questa intervista al manifesto. Alfano fa il suo mestiere, ma lo fa male. Iniziative come quelle di ieri sembrano una forma di accattonaggio elettorale da parte di formazioni politiche con l'acqua alla gola. Così parlano Antonio Garullo e Mario Ottocento, intervistati dal manifesto. Ma ne parleremo ovviamente alle 8:45. Io voglio, prima della pubblicità, però, assegnare come sempre il premio Mani sul Volante all'articolo che ci fa più di questa giornata, ed è quello che racconta Carlo Tecce a pagina 5 del Fatto Quotidiano, riguarda Rai Expo 2015. Chi l'ha vista? Due sedi, un documentario prodotto da 800.000 euro e la struttura della Rai per seguire l'evento ha già ricevuto 5 milioni di euro di finanziamenti, ora usa risorse della TV. E scrive Carlo Tecce: di fatto Rai Expo, struttura speciale finanziata col denaro di Expo, finanziata dalla Rai. E che vuol dire speciale? Beh, intanto la denuncia del Fatto Quotidiano è questa. Di fatto tanti soldi, due sedi, 58 dipendenti per non fare nulla. L'ultima trovata, un documentario sullo agroalimentare in quattro lingue, anche in cinese. Spesa per il documentario 800.000 euro. In questo mondo senza Dio io non so quali altre cazzate verranno sfacciate per verità qui. Perché Alessandro Mila è Alessandro Mila. Alla fine col tempo ha perso un po' di battute sul ritmo, però non è male. Grazie caro ascoltatore. Io vorrei andare subito ai temi, quelli caldi politici. Beh, arriverà oggi la fiducia alla riforma del lavoro oggi pomeriggio? È una domanda che sto ponendo. Mentre Renzi stringerà la mano a Milano ad Angela Merkel, a Hollande, per il convegno internazionale sul lavoro? Questo è quello che spera Matteo Renzi. Staremo ovviamente a vedere. Intanto ieri c'è stato questo un'ora di scontro o confronto con i sindacati. Fumata grigia l'ha definita Renzi. In realtà oggi i giornali si sbizzarriscono a raccontare quelle che sono state le battute dissacranti tra Renzi e i sindacati. Guardate qui, basta spulciare i giornali, le trovate varie. Pagina 3 del Corriere della Sera. Camusso accusa, il premier ironizza. Per esempio, ad Angeletti, che propone di dimezzare i comuni, Renzi risponde: io non voglio dimezzare i sindaci, ma i sindacalisti. Oppure Camusso, che polemizza: perché Renzi non ha ricevuto il sindacato europeo? E Renzi: e come si chiama? CES, Confederazione Europea dei Sindacati. Ecco, già io gli cambierei il nome, risponde Matteo Renzi a Susanna Camusso. E poi a un certo punto prende la parola Barbagallo, racconta Repubblica. Barbagallo è il vice di Angeletti, colui che è destinato a succedergli. Prende la parola e Renzi: lei chi è? La prossima volta dia la delega e si faccia rappresentare dal suo segretario generale, Angeletti. E ancora, alla Camusso: sono sicuro che porterete 3 milioni di lavoratori in piazza, diremo al sindaco Marino di accoglierli con il dovuto riguardo. E ancora, sempre Matteo Renzi e i sindacati, appena si siedono alla Sala Verde: sì sì, parlate parlate, ma guardate che a Padoan oggi interessa solo il risultato di Juve-Roma. Ecco, questo è il clima molto canzonatorio, diciamo così, che si è svolto, che, con il quale Renzi ha accolto i sindacati. In realtà Goffredo De Marchis e Roberto Mania su Repubblica raccontano di una Camusso molto arrabbiata, CGL da sola in trincea, Camusso: noi in piazza, e non finirà certo lì. La CGL, racconta Repubblica, resta da sola l'opposizione del governo. CISL e UIL si staccano, decidono di andare a vedere le carte di Renzi, mentre Camusso dice: non finirà lì dopo la convocazione il 25 ottobre a Piazza San Giovanni della manifestazione contro le politiche del governo. Riceve ovviamente, racconta Repubblica, l'ormai classico mantra renziano: ce ne faremo una ragione. In ogni caso, il clima coi sindacati non è stato dei migliori, racconta addirittura Il Giornale, che è finita a canzonette, come abbiamo già fatto sentire alle 6.30, perché se la Camusso ieri invocava un'ora sola ti vorrei, visto che l'incontro è durato un'ora, Renzi ha risposto: a me piace di più Edoardo Bennato, una settimana, un giorno. Nella quale canzone si legge: un'ora a volte vale una vita intera. E poi, per rincarare la dose, si è messo pure il serissimo ministro all'economia Padoan a dire: a me piace più Mondomarcio, con la sua 4 minuti. Vabbè, non era il Festival di Sanremo, ma era la concertazione a Palazzo Chigi con i sindacati. Che succederà al Senato? Beh, intanto c'è subito il senatore Corradino Mineo, che a pagina 3 di Repubblica dice: sono scelte insopportabili, sono pronto a non votare e a lasciare il Senato. Insieme a lui forse anche la senatrice Lucrezia Ricchiuti, che sarà nostra ospite alle 8.15, che dice: il mio dissenso non si può risolvere in 24 ore. La realtà è che alla fine sembra voteranno più o meno tutti. Come ha detto Pierluigi Bersani: nessuna crisi al buio, i comunisti hanno in vena il concetto di responsabilità nazionale. Dunque non mi attendo sorprese, dice Renzi, e molto probabilmente le sorprese non ci saranno oggi al voto. Però sul tema del lavoro io vi voglio leggere ciò che La Stampa mette a pagina 2-3, che è una proposta molto concreta, elaborata in 6 mesi di studio, come scrive Luca Ricolfi, ed è questa. Il titolo è molto molto ambizioso: una ricetta per creare 300.000 nuovi posti di lavoro. È una proposta che prevede un nuovo contratto per chi aumenta l'occupazione per un periodo tra 1 e 4 anni. In questo contratto la busta paga dei nuovi assunti sarà compresa tra 10 e 20 mila euro annui. il costo aziendale aggiuntivo rispetto alla busta paga è del 25% anziché del 100%, e la differenza tra costo aziendale e busta paga viene usata per pagare l'IRPEF e parte dei contributi. Al punto 5 lo Stato aggiunge l'intera contribuzione mancante assicurando al lavoratore una piena tutela, e l'erario ci guadagna perché il gettito da lavoro cala, ma il denaro che gira fa salire molto di più le entrate. Questa in 6 punti, in estrema sintesi, è la proposta. Luca Ricolfi ne scrive a pagina 2-3, viene chiamata Job Italia, che fa un po', come dire, in contrasto, va un po' a contrasto con il Jobs Act. 300.000 posti di lavoro in più, scrive Ricolfi, ma Renzi li legge i documenti ufficiali del suo governo? A me viene da pensare di no, o che li consideri solo noiose scartoffie buone per tranquillizzare i burocrati europei. Perché Renzi dichiara che nel 2015 taglia la spesa pubblica non saranno solo di 17, bensì di 20 miliardi. Nelle scartoffie invece la spesa pubblica diminuisce di appena 4 miliardi. Renzi annuncia una rivoluzione nel mercato del lavoro per dare speranza ai disoccupati, ma nella nota di aggiornamento si prevede che l'anno prossimo l'occupazione aumenterà di appena 20.000 unità a fronte di più di 3 milioni di disoccupati. Renzi ci promette che tra 1.000 giorni l'Italia sarà completamente cambiata grazie alle riforme, ma nella nota di aggiornamento del suo ministro dell'economia si prevede che nel 2018, a fine legislatura, sempre che la congiuntura internazionale vada bene e le riforme vengano fatte, il tasso di disoccupazione sarà dell'11,2% anziché del 12,6% come oggi. In parole povere, 200.000 o 300.000 disoccupati in meno su 3 milioni, a fronte di 1,5 milioni di posti di lavoro persi durante la crisi. Eccoci dunque, dopo questa premessa, al dunque: la proposta con la Fondazione IUM, i 6 punti che ho citato, quello di dare un contratto alle persone, un contratto che permetta alle imprese che aumentano l'occupazione di usare limitatamente i posti di lavoro addizionali e per un massimo di 4 anni uno speciale contratto full time nel quale il lavoratore riceve in busta paga l'80% del costo aziendale anziché il 50% come oggi, mentre il restante 20% affluisce allo Stato sotto forma di IRPEF e contributi sociali. È una proposta che la stampa pone al governo Renzi. In un paese in cui, e questo lo ha certificato ieri la Fondazione Migrantes, dando un ritratto imprevisto del nuovo emigrante, sapete chi è soprattutto il nuovo emigrante? L'italiano. Il nuovo emigrante italiano. Tutti i giornali raccontano di come 94.126 italiani si siano trasferiti all'estero nel corso del 2013, l'anno prima erano stati 78.000. Il 36% di emigranti italiani ed età compresa tra i 18 e i 34 anni, insomma, gli italiani, se possono, abbandonano il nostro paese. Questo è il titolo dei giornali. Lascia la Lombardia per Londra è il profilo del nuovo emigrante italiano, così il Corriere della Sera. Oppure una generazione in fuga dall'Italia, così Avvenire parla del rapporto Migrantes. La crisi e la disoccupazione rubano i giovani al paese, ci sono più partenze che arrivi. E anche la stampa: fuga dal bel paese, espatriano 94.000 italiani in un anno, il boom è della Lombardia. Crisi, boom di italiani all'estero e il rapporto Migrantes anche per il Quotidiano Nazionale. Scappano tutti, Mauro Meazza, buongiorno, scappano. Buongiorno. Il problema, sai, è, oltre al fatto che scappino, cioè che trovino lavoro all'estero, perché d'altra parte il lavoro può stare un po' dovunque, è che, come vedi sul Sole 24 Ore di oggi, anche le imprese meditano trasferimenti all'estero. Riferiamo su Imprese e Territori questa tentazione Istria per le imprese del Veneto e friulane, che è un po' più di una tentazione, insomma, c'è una camera di commercio congiunta e, insomma, potrebbero esserci dei trasferimenti, però stai tranquillo perché potrebbero sostituirci con dei robot. Hai visto la Volkswagen? Ne sono Alessandro oggi. Milan, do la parola a Mauro Meazza. Potrebbe essere così. Alla Volkswagen stanno pensando che con il pensionamento dei baby boomers, cioè quelli nati nei primi anni 60, anziché sostituirli potrebbero essere impiegati dei robot, quindi magari anche dei robot per leggere la rassegna stampa. Insomma, in fondo, alla fine il robot, anche se si alza presto alla mattina, non è che abbia così tanti problemi. Non ha le occhiaie. Ti vorrei segnalare che poi c'è questo importante passo della Banca Centrale Europea nei confronti delle banche europee, appunto, anche piccole, con una stretta di vigilanza. Lo spiega bene Luca Davi nella prima pagina di Finanza Oggi, e la sostanza è che insomma la BCE andrà a controllare non solo le banche più grandi ma anche le banche piccole un po' di tutti i paesi europei. Ti rimando a quello e poi vorrei rassicurarti in ultimo. Oggi con il Sole 24 Ore diamo un inserto dedicato alle operazioni straordinarie. Ecco, sono le operazioni straordinarie delle società. Non si tratta dei calcoli che stiamo cercando di fare un po' tutti per la TASI, ecco, quelle sono operazioni straordinarie, però di quello poi faremo anche una guida, oggi ci sono altri quesiti, faremo ancora una guida venerdì così da portarci un po' avanti rispetto alla scadenza di versamento. Guarda che la scadenza incombe, lo so. Il tempo fugge e l'uomo non se ne avvede, dice il poeta. Però prendo lo spunto di Ettore, via Mazzarri, dentro Meazza, risparmiamo sul cambio del nominativo sull'armadietto. Poi c'è anche stadio, stacchiamo le targhe dallo stadio e le mettiamo sull'armadietto. Ma se poi non mi sostituiscono con un robot io ci potrei anche stare. Vabbè, intanto ci penso. Traffico. Alessandro Milan, il gigrobo d'acciaio dell'informazione. Eccoci addirittura al gigrobo d'acciaio. Vabbè, a proposito di lavoro, il lavoro che non c'è, oggi il giornale fa una pagina interessante, pagina 5, con un dibattito che è riassunto in questo titolo, è Nino Materi che ne parla. Quei giovani laureati che fanno gli spazzini. Il dibattito è questo: vale la pena studiare una vita per poi accettare lavori cosiddetti umili? La storia, per esempio, in Veneto, 300 medici non dottori ma laureati, che si contendono un posto da aiuto infermiere. E allora racconta il giornale, per esempio, raccontando, partendo dalla storia di Giuseppe Spizzino, 27 anni, laureato in ingegneria edile, che fa lo spazzino a Napoli, e lui tra l'altro ironizza, dice: anche se mi chiamo Spizzino mai avrei creduto di poter fare lo spazzino, ero però stufo di fare il disoccupato e vivere alle spalle dei genitori, vorrei andare a vivere da solo e farmi una famiglia, intanto raccolgo monnezza dalla mattina alla sera. E racconta il giornale: le storie di questo tipo non sono certo un'eccezione, per esempio 300 giovani dottori veneti, cioè dottori laureati, no, lo specifico perché si parla di posto da infermiere, magari si equivoca. Si sono messi in lista per seguire, pagando 1.500 euro, un corso da aiuto infermiere. Sono laureati in psicologia, lettere, filosofia, scienze politiche. Spendono 1.500 euro per questo master da aiuto infermiere. Si badi bene, non infermiere, ma da aiuto infermiere. Praticamente l'ultimo gradino della carriera ospedaliera. Attività che, scrive il giornale, merita il massimo rispetto, ma che non rientra certo nei sogni di chi ha investito soldi, tempo, passione tra le aule universitarie. E molti di questi dicono: meglio di niente, almeno si lavora. Il dibattito è interessante. Vale la pena studiare una vita per poi accettare lavori umili? Lo trovate sul giornale. Mentre se ci concentriamo sull'attualità internazionale, la situazione più esplosiva è davvero quella che riguarda lo Stato Islamico e la Siria, perché la città di Kobane, che è al confine tra Siria e Turchia, è ormai caduta o sta per cadere, racconta Lorenzo Cremonesi, inviato al confine Siria-Turchia per il Corriere della Sera. Nella tempesta di fuoco di Kobane, colonne di jihadisti blindati in fumo. Il premier turco Erdogan dice: la città ormai è perduta. In realtà da più parti si invoca un invio di truppe che possano intervenire via terra in modo da contrastare lo Stato Islamico. Mentre per quel che riguarda la cronaca italiana, io avevo detto la scorsa settimana, non sarà mica che inviteremo con tanto di scorta dei corazzieri Riina e Bagarella al Quirinale per l'udienza di Giorgio Napolitano nella storia della presunta trattativa su cui indaga la procura di Palermo? Beh, non succede così, ma insomma, io dico però, se farsa deve essere, sia fatta bene, e quindi auspicherei a questo punto, dopo che è stato dato il sì e del diritto a Totò Riina e a Leo Luca Bagarella di ascoltare la testimonianza di Napolitano, ma lo faranno solo in videoconferenza, beh, io dico invece, se una farsa deve essere, farsa sia fatta totalmente. Io vorrei vedere Totò Riina, Totò Ucurtu, accompagnato dai corazzieri del Quirinale, entrare e assistere proprio in presa diretta alla testimonianza di Giorgio Napolitano. Così almeno ci faremo ridere, insomma, o piangere dietro da tre quarti di mondo. Però il dato di fatto è questo: i PM sulla deposizione di Napolitano, Mancino e i boss devono assistere, deve assistere anche Nicola Mancino, che chiede anche lui di partecipare all'udienza del processo sulla presunta trattativa Stato Cosa Nostra, è fissata per il 28 ottobre. Si difende Vittorio Teresi, magistrato capo del pool che indaga sulla presunta trattativa, intervistato da Repubblica, da Salvo Palazzolo, dice: abbiamo il massimo e assoluto rispetto per il Presidente della Repubblica, ma c'è il concreto rischio che la mancata partecipazione degli imputati all'udienza del Quirinale possa costituire una nullità insanabile nel processo, e dunque Totò Riina e Luca Bagarella assisteranno alla testimonianza di Napolitano. Oggi sulla stampa Francesco Lalicata, che segue da sempre queste vicende, racconta, il titolo emblematico, la decenza violata senza alcuna utilità sul piano giudiziario. La procura di Palermo non si oppone alla presenza degli imputati e la china intrapresa appare scivolosa e piena di pericoli. Mentre Fabrizio Forché sul Sole 24 Ore, il vice direttore, parla di dignità. In un breve corsivo in prima pagina scrive: Forché c'è un patrimonio cui nessun paese al mondo può permettersi di rinunciare, quello della dignità delle sue istituzioni. In Italia stiamo facendo da anni rapidi passi in direzione contraria. C'è un livello però sotto il quale non si può scendere. Un Parlamento che non riesce a esercitare le proprie facoltà costituzionali infanga non solo se stesso. E si riferisce alla mancata elezione alla Consulta. E poi una Procura della Repubblica che dà parere favorevole alla presenza di boss mafiosi all'audizione del Capo dello Stato fa anche peggio. C'è un punto di non ritorno oltre il quale non ci si rialza più e non va superato. Ma staremo a vedere, ci sarà proprio da sbizzarrirsi e sbellicarsi dalle risate per non piangere quando il 28 ottobre Napolitano parlerà e Totò Ucurtu ascolterà insieme a Leo Luca Bagarella. Intanto il Corriere della Sera racconta, ed è l'unico quotidiano che lo fa, mette questa notizia in prima pagina con Luigi Ferrarella, che il procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati è indagato. È indagato a Brescia, la vicenda è omissione, l'ipotesi di reato è omissione d'atti d'ufficio, non è un'iscrizione recente, non ha a che vedere con gli attriti tra lui e il procuratore aggiunto Robledo, ma pare che sia la travagliata storia dell'inchiesta milanese su Vito Gamberale del fondo F2I e la mancata diciamo, assegnazione di un fascicolo proprio a Robledo, dato con qualche mese di ritardo, che è costata al procuratore di Milano questa iscrizione nel registro degli indagati. Indaga Brescia per competenza territoriale su Milano. Mentre il Corriere della Sera e Repubblica raccontano degli appalti fasulli da 200 milioni con i quali l'ex ministro dell'ambiente Clini, questa è l'accusa, si intascava il 10%. Questa è la ricostruzione dell'accusa, cioè l'ex ministro Clini è accusato di aver ricevuto tangenti attraverso l'utilizzo di uffici fantasma a Pechino, e Fiorenza Sarzanini scrive tutti i dettagli a pagina 19 per Clini, che è stato arrestato nel maggio scorso. Ci fermiamo qui? Sì, Dico solo l'interessante intervista a Urbano Cairo, leggetela, sul giornale in prima pagina, dice di essere molto felice di Giovanni Floris e del suo Di Martedì, ma vince il premio La Carta Costa, è abbastanza emblematico. Alberto Custodero su Repubblica, addio lettere e cartoline, la posta dimezzata in 5 anni, non scriviamo più, è già La Carta Costa. Ma chi se ne frega? Mattino. Quando sono le 8:18, ben ritrovati da Alessandro Milan. La domanda, cari ascoltatori, è: Renzi riuscirà a incassare la fiducia sul Jobs Act al Senato entro oggi pomeriggio? Non è una questione secondaria, perché oggi pomeriggio Renzi a Milano riceverà e stringerà la mano per il summit sul lavoro ad Angela Merkel, oltre a Hollande, altri capi di governo. E diciamocela tutta, c'è anche una partita mediatica in questa sfida sulla riforma del lavoro. Cioè, immaginate far vedere all'Europa che conta, ad Angela Merkel in primo piano, che gli italiani le cose le fanno, e Renzi può incassare questa vittoria. Nella legge delega sulla riforma del lavoro, che verrà approvata presumibilmente oggi, l'articolo 18 non c'è, verrà affrontato successivamente nei decreti attuativi. C'è da dire che peraltro non c'è nel dibattito, mi pare, anche grandi sorprese in vista. Il PD al Senato sembra compatto, come ha detto Bersani, anche con una certa dose di ironia: noi comunisti abbiamo in vena il concetto di responsabilità nazionale. L'ironia, sia ben inteso, la leggo sulla parola comunisti, non sul resto del concetto, non mi permetterei mai. Sentiamo a questo proposito Renzi, che appunto non si attende colpi bassi, diciamo così. Sono convinto che sia naturale che tutte le senatrici e i senatori del Partito Democratico votino la fiducia, come è sempre accaduto, per cui non temo agguati. Ove ci fossero, li affronteremmo. Non temo agguati. Senatrice Lucrezia Ricchiuti, buongiorno. Buongiorno. Allora, uno degli agguati potrebbe venire da lei, inutile girarci intorno, perché è data come uno dei nomi più incerti. Che farà? Ma lo decideremo stamattina. Stamattina abbiamo una riunione con altri miei colleghi e decideremo cosa fare rispetto a questa delega, quello che presenteranno, perché quello che ho letto è solo quello che ho letto, insomma, dalla... La sento già sbuffare quando dice la parola delega. Sì, perché è una delega non delega, almeno io ho letto delle cose sui giornali, cioè il documento non l'abbiamo ancora in mano, quindi... E vabbè, tutto molto poco chiaro, quindi vedremo che cosa adesso vedremo il ministro Poletti cosa porta in aula e cosa ci dice, perché poi credo che dovrà fare anche delle dichiarazioni. Sì, oggi ci sono dei senatori iscritti a parlare, credo una cinquantina, poi Poletti farà le conclusioni. Quelli iscritti a parlare sono ancora quelli della discussione generale, sì. Cioè che stanno parlando, insomma, come Meyer, un po' al vento, nel senso che poi tutto quello che dici, no, viene tutto annullato dal fatto che si presenta il maxi emendamento e si dà la fiducia. Comunque, al di là di questo, vedremo le dichiarazioni che farà, anche perché sul contratto a tempo indeterminato le tutele crescenti non si è mica ben capito che cosa sono, se sono legate solo al licenziamento, alla possibilità di licenziare o ad altro. Comunque, senatrice, la questione è questa, mi sembra di capire, deciderete questa mattina, ma chi? Lei? Mineo, perché mi risulta che ci siano... Cioè, sì, io, Mineo, Tocci, Cazzon, Tocci. Insomma, siamo pochissimi, gli altri hanno già dichiarato che voteranno. Voteranno la fiducia e presenteranno un Però documento. Ho sentito Renzi di parlare di nel caso ci fossero agguati, valuteremo? Come lo interpreta quel valuteremo di Renzi? Ah, non lo interpreto proprio. Nel senso che non so che cosa voglia dire, comunque non è che... Forse che chi vota contro, insomma, si dovrà assumere politicamente la responsabilità di quello che fa. Infatti noi ci assumiamo la responsabilità non votando magari questa delega, però noi siamo liberi di fare, di votare o non votare, non è che noi siamo obbligati a votare esattamente quello che presentano e soprattutto quando presentano provvedimenti che non servono a nulla o a licenziare le persone. Perché questo secondo lei è la riforma del lavoro, non serve a nulla o al limite serve a licenziare le persone? Ma no, una riforma sarebbe del lavoro serviva... sarebbe l'esatto contrario dell'intento a cui va incontro Renzi, cioè di invece infatti, creare più lavoro. E creare più lavoro, però non più lavoro precario. Il problema è che noi dobbiamo eliminare il lavoro precario, che oggi è la prevalenza rispetto invece al lavoro a tempo indeterminato. Quindi non mi sembra che in questa delega si arrivi a quel punto, cioè si arrivi a quel risultato. Diciamo, la vedo più propensa per il no piuttosto che per il sì, però in mattinata chissà, poi vi riunirete e deciderete. Mi faccia presentare, le presento anche Claudio Velardi, uno che non ha peli sulla lingua e che insomma di fronte a questo dissenso, per la verità numericamente limitato, Velardi, sappiamo quello che mi viene, a proposito di peli sulla lingua, una prima cosa te la dico a proposito dei giornali, sì, che fino a ieri ancora, hanno non le dette tutte, c'entra sulla partita, con la partita mediatica che si tocca. Ieri i giornali hanno inventato che la Merkel non avrebbe partecipato fino alla fine al meeting su Repubblica, naturalmente non è vero, Merkel sarà là e giustamente Renzi si giocherà anche la sua partita mediatica al vertice di Milano. Ma veniamo al punto. Il punto è che, detto con il massimo rispetto, la senatrice Ricchiuti, così come agli altri dissidenti, prendono una posizione molto molto comoda, perché è bello dire che queste leggi, queste misure di Renzi vanno contro i lavoratori, addirittura contro la dignità dei lavoratori, ed è bello votare contro sapendo che il governo non salta e che quindi tutti quanti i parlamentari dissidenti poi si tengono il proprio seggio parlamentare. Eh beh, però ci sono quelle conseguenze, quelle conseguenze che Renzi... La conseguenza dovrebbe essere quella di fare un bel partito, perché evidentemente Renzi non difende la dignità dei lavoratori, sì, la difendono la dignità dei lavoratori Vendola, Bersani, D'Alema, Fassina, Mineo, Civati, Ricchiuti, facciano un bel partito di sinistra come fece la Fontaine in Germania all'epoca di Schröder, si uniscano e facciano cadere Renzi, si vada al voto e poi facciamo due conti, vediamo quanti voti prendono Bersani, D'Alema, Mineo, Ricchiuti, Fassina e quanti Renzi e quanti gli altri. Allora, questa senatrice, la posizione senatrice, è ipocrita, politicamente la posizione, è comoda, è scontato fare il dissenso e rimanere in 4 o 5 dentro il partito a fare un po' casino? Ma Velardi parla solo di tattica politica, invece io voglio parlare di contenuti. Che cosa vuol dire che è facile per noi, per me, dire di no perché tanto so che gli altri poi no, voteranno e quindi la fiducia passerà? Io sono io e quindi io do un giudizio, io devo dare un giudizio e devo votare a seconda i provvedimenti che mi porta il governo. Però Velardi dice, se Velardi quindi, dice per lei Renzi non difende il lavoro, allora arriva lo sblocca Italia, siccome lo sblocca Italia probabilmente è invotabile, cosa facciamo? Un altro partito, cioè siccome portano i provvedimenti evidentemente che non facciamo un altro partito. Evidentemente lei non io si riconosce. Voglio combattere, scusi, nel mio partito e voglio modificare i provvedimenti che mi portano, non che mi faccio un altro partito. Poi ce ne sono già troppi in Italia di partiti. Effettivamente questo è vero. Fare un altro partito. Ogni volta facciamo un partito per un provvedimento che arriva. Che no, però le chiedo questo perché lei è cosiddetta civatiana e siccome si dice Civati potrebbe, tra l'altro Civati poi sarà da Giovanni Minoli dopo le 9, siccome si dice che Civati potrebbe essere vicino, tentato dalle sirene di Vendola, cioè lei si sente più politicamente vicina a Vendola e quindi a Sel o si sente ben insediata nel PD, in questo PD? Ma io sono io mi sento del PD perché sono nel PD e ci sto, ho fatto tutta la trafila, sono iscritta dal 79, non naturalmente al PD ma vengo dal PC, quindi ho creduto nel PD e sto nel PD. Se mi sento di sinistra, certo che mi sento di sinistra, io arrivo da quella, anche Vendola è di sinistra, da quell'area, no? E quindi io sono nel PD, quindi voglio portare avanti le istanze della sinistra. Vabbè, insomma, non voglio governare, io non voglio governare con il centrodestra, io non voglio governare con Verdini. Ma allora che ci fa? E non vuole governare con Verdini? E Velardi che può stare nel PD, la Ricchiuti, se non vuole governare con Verdini? Ma diciamo, nel PD conviene a tutti quanti stare, perché è un bel contenitore del 41% e quindi è evidente che tutti vogliono stare nel PD. Piacerebbe anche a Vendola poter dire quello che vuole lui stando nel PD. Il punto è che in un partito non si sta così, non si sta in questo modo. La piattaforma politica di Renzi ha vinto l'ultimo appuntamento elettorale significativo, quindi chi è quello europeo, quello del 41%, quindi chi sta dentro quel partito deve stare con quella piattaforma, discutendo, facendo tutte quante le riunioni che vogliono, questo va benissimo, però bisogna essere leali con il partito e anche con se stessi e con la propria costituenza elettorale, perché ripeto, non si può andare a dire ai propri militanti, ai propri elettori, guardate come siamo bravi noi e come sono cattivi quegli altri, tenendosi il seggio parlamentare. Questo allora, non è consentito. Siccome voglio... Scusi, ma sì, quando intende piattaforma, Velardi, intende che cosa? Il programma elettorale? Noi, l'articolo 18 del programma elettorale non ci stava. No, il programma elettorale non c'era scritto che noi dovevamo governare col centrodestra, scusi, Casomai, questo è vero, questo è vero, però le elezioni sono andate in un certo modo. Quando Letta è diventato Presidente del Consiglio, il governo doveva durare 18 mesi, quindi adesso avremmo dovuto sciogliere le Camere e in primavera andare alle elezioni. Ce lo siamo già dimenticato? Quello di Letta era un governo del PD, era del PD Letta o non era del PD? Accidenti, ma lei Ricchiuti però parla, lei Ricchiuti parla da una di sinistra, ma non molto, non proprio non renziana. Cioè, se uno la sentisse parlare non direbbe che lei fa parte di questo PD di Matteo Renzi. Però io voglio proprio rasserenare la giornata a Velardi fino al mattino. Allora Mineo che parla. Democrazia debole, deriva plebiscitaria. Chi è Matteo Renzi? È Giulio Cesare? Magari aveva una visione Giulio Cesare. Gli auguro naturalmente di non essere ucciso da Bruto. Addirittura. No, perché no, Velardi? È un altro dei senatori che è fortemente indiziato. Oggi a Repubblica dice: scelte insopportabili, sono pronto a non votare e a lasciare il Senato. Ecco. Figuriamoci, lo voglio vedere Mineo che lascia il Senato, perché non ha detto lascio il PD, ha detto lascio il Senato, significa che si dimette da senatore. Questo è il titolo. Se succede questo, facciamo come Renzi e Vespa, cioè io vado a, non facciamo. Dubito fortemente che succeda che Mineo si dimetta da senatore. Vabbè, ma la scommessa, cioè, che dobbiamo fare? La fai tu con Mineo, cioè se si dimette. Se si dimette io e Velardi al Monte Senato. Se non si dimette, però ci vorrebbe Mineo per fare una scommessa fatta bene in due. La scommessa non si fa senza i due contraenti, diciamo. Allora andiamo in pubblicità e poi rientriamo con la senatrice Ricchiuti e con Claudio Velardi a capire anche con le vostre domande 800 24 00 24. Vi preannuncio invece che alle 8:45 avremo il sindaco di Bologna Virginio Merola per la questione dei matrimoni gay, il dibattito, la diatriba, anzi, con il ministro Alfano. 24 mattino. So, io vedo ombre pesanti sulla nostra democrazia. Io mi alzerei domani e voterei no alla fiducia. Direi a Renzi: lo spettacolo è finito, non sei più alla ruota della fortuna. Ecco qua, sempre il senatore Mineo. Siamo con Claudio Velardi e la senatrice Lucrezia Ricchiuti. Devo dire, Velardi, l'ho letta bene l'intervista di Repubblica, il titolo inganna un po': potrei dimettermi dal Senato o andare al gruppo misto. Non me la mi... ecco. Questo per allora la precisione. Annulliamo la scommessa, l'esito è scontato, diciamo. Per la precisione. Però vorrei sentire qualche ascoltatore che ci chiama l'800 24 00 24. Anna da Roma, buongiorno Anna. Ciao Milan, ciao. È tanto che vorrei parlarti, ti ringrazio per le tue trasmissioni. Vorrei sottolineare tutto quello che ha detto Velardi, tutto, parola per parola. la cara senatrice ha fatto la gavetta nel partito, beh, ora è tempo che se ne vada a riposare. Perché? Metta una giovane al posto suo, cioè, abbiamo bisogno di gente che lavori, che si preoccupi per noi, non per fare presenza. Ma hai mai visti parlare Civati, Minneo, dei poveretti? Li abbiamo anche avuto. Beh, adesso insomma sono senatore, non lo esprimo la loro idea. Comunque, senatrice Ricchiuti, ascolti Anna da Roma, insomma è un po' dura nei suoi confronti. No, io ho detto che sono iscritta dal PC nel 79, non che sono in politica dal 79. Forse c'è qualcun altro lì dentro, in quel Parlamento, che si è mummificato e che ancora non è andato via. È vero. Quindi io sono stata senatrice Ricchiuti, non è vecchia, signora. Ho vinto le primarie, sono arrivata l'anno scorso, quindi, e ho sempre lavorato, e se me ne vado da questo Parlamento ho un lavoro e continuerò a lavorare. Che lavoro fa? A differenza di qualche altro mio collega, invece, che vota la fiducia, perché ha il problema opposto, che non sa dove andare se non farà il senatore o il deputato. E questo Velardi lo sa perfettamente, visto che è in politica da tantissimi anni, come consulente di questo e di quell'altro. Quindi, cioè, non venite, la signora non deve dire a me che io sono lì a prendere lo stipendio, perché vivo del mio, quindi ho sempre vissuto del mio, e quindi non devo ringraziare nessuno. Comunque, c'è qualche anche nel governo c'è qualcuno che magari non ha mai lavorato, giusto? A chi si riferisce? Posso dire una cosa? Ce ne sono diversi, scusi. Non so, mi dica per esempio, Renzi, Sacconi, anche si dice Renzi, non mai... del 79, a parte che non è il governo, Sacconi non è il governo, ma comunque nella nostra maggioranza. A lei non va giù. Dal 79 che in Parlamento mi parla di modernità e di cambiamento. Scusi, è 35 anni che è lì. A lei non va giù proprio questa alleanza col centrodestra, di qualsiasi tipo. Ma è una posizione politica legittima. Velardi, che c'è? No, allora volevo dire intanto che questa alleanza col centrodestra non mi pare che ci sia, nel senso che Verdini sta all'opposizione. C'è un'alleanza con Alfano, con il partito di Alfano, è un'altra cosa. Sottolineo che ride la senatrice Ricchiuti. Dai, il patto del Nazareno, però, Velardi. Allora torniamo al punto politico, perché io sottolineavo una questione politica, non una questione personale. Peraltro non conosco personalmente la senatrice, sarà una bravissima persona, una gran lavoratrice, non dubito affatto. Il punto politico è che se ci sono queste obiezioni così di fondo, addirittura appunto la senatrice dice che c'è un patto scellerato con Verdini e con Berlusconi, che si lede la dignità del lavoro con la legge sul lavoro e così via, non ci sono gli estremi per stare insieme. Per questo io dico, è comodo stare insieme. Però lei dice voglio cambiare, fare una battaglia all'interno del partito. Non so se ricordi, c'era un'orribile famosa frase di Ricucci di qualche anno fa, molto brutta, non la cito. Ma non si può stare in Parlamento grazie ai voti che prende Renzi, è chiaro? E grazie al consenso che prende Renzi. Questo è il punto. Sì, sì. Allora si fa un altro partito, si va allo showdown, si va al voto. Si va a questo. Un partitino di sinistra. Però uno può anche combattere. Combattere all'interno del partito. Insomma, comunque sentiamo. Si combatte all'interno del partito e poi in Parlamento si va a votare secondo le indicazioni del partito. E mi pare naturale. Okay. Peraltro la senatrice Ricchiuti viene dal PC, che era un partito serio, lì usava così, no? Il dissenso non era consentito, almeno nel momento del voto. Alberto da Roma, buongiorno Alberto. Salve, buongiorno Milan. Eccoci. Allora, io purtroppo devo ridare ragione a Velardi, anch'io. Cioè, nel senso, io. Dopo adesso gli do torto io, perché sennò poi dopo. Bisognerebbe mediare. Però il concetto è che io ho 30 anni, sono stato alla prima Leopolda. Ho creduto in un progetto e però io continuo nel mio partito a trovarmi dentro gente che è stata iscritta al PC dal 1979, che appartiene ad una sinistra gucciniana, che continua a non capire qual è la differenza tra una maggioranza che vince con 80 voti ed una minoranza che perde con 20. Gucciniana non è male, però Alberto le chiedo questo, visto che lei è stata la prima Leopolda, sa che molti criticano, e lo stesso Matteo Richetti, che è un renziano della prima ora, e che negli ultimi giorni ha detto ma è lo spirito della Leopolda, non è proprio lo spirito che vedo adesso nel momento in cui Renzi è al governo. Lei che c'era a Leopolda, lo ammetto anch'io. Però c'è anche della realpolitik poi con cui fare i confronti, cioè arriva un momento in cui, ed è questo il problema poi di chi è iscritto al PC dal 79, E quando si arriva al governo qualcosa bisogna fare, un compromesso con il nemico bisogna trovarlo per forza. Arriva un momento in cui ad un tavolo bisogna sedersi per scavalcare quelle differenze che hanno bloccato il paese negli ultimi 20 anni. Sì. Dove stavano quelli che erano iscritti al PC dal 79, quando c'erano le macellerie sociali vere? Insomma, questa storia dell'iscrizione al PC del 79, senatrice Ricchiuti, non gliela perdonano, ma almeno lei gucciniana si ritrova, le piace Guccini? No, io mi ritrovo nei radi giovani e meno giovani che lavorano nei call center e prendono uno stipendio da fame, in quelli che lavorano nei centri commerciali dove lavorano in due turni da sette ore su sette, non possono fare le ferie. Sono per quelli che lavorano nelle cooperative a 7 euro all'ora e non hanno nel TFR, non hanno la malattia, non hanno l'indennità di maternità, e quando finisce il lavoro le vacanze estive non prendono lo stipendio. Io sono dalla parte di quelli, dei precari, e quindi io devo difendere i precari e non i datori di lavoro. E lei dice questa riforma del lavoro non difende i precari. Questa riforma del lavoro sul precariato non fa assolutamente nulla, non solo, ma non ci sono neanche i controlli. Il problema dell'Italia è che non ci sono neanche i controlli, e anche nella delega adesso noi istituiremo un qualche cosa che sarà insieme ispettorato del lavoro, sì, INPS eccetera, sì, per fare i controlli a zero, non mettendo un euro in più di quello che stiamo mettendo adesso. Ma adesso sono già insufficienti. Il problema è che se ne approfittano in tanti e nessuno fa i controlli. Allora, sentiamo Leonardo da Bari, ci chiama. Leonardo, buongiorno. È caduta la linea. Velardi, però questa storia che l'articolo 18 è sparito e verrà trattato dopo tutto sto gran can can, e poi la questione dei sindacati, ma l'avete letto sui giornali? Sui giornali, sì, Velardi. Come ha trattato i sindacati ieri Renzi alla Camusso? Ma perché non hai convocato il CES? Cos'è il CES? Il Confederazione Europea Sindacati? Ecco, io cambierei già il nome, gli ha detto Renzi. Però devo dire la verità, hanno fornito a Renzi gli assist che neppure il mio grande capitano. Ho capito, ma c'è, ha accolto i sindacati e gli ha detto parlate, qua c'è Padoan, tanto lui è interessato al risultato di Juve-Roma, mica ad ascoltare. Ma dai, ma non va bene tutto la battuta, ma non è possibile trattare così, no? Gli hanno fornito degli assist micidiali, però guarda la foto che appare su tutti i maledetti giornali stamattina della sala verde vuota, è un'immagine meravigliosa, cioè con 4 ministri e 4 sindacalisti, sì, quella invece di 500 verde, per anni e anni si è riempita di 500 burocrati, funzionari, consulenti, portaborse, parassiti vari, per discussioni interminabili, duravano mesi. Le discussioni nella sala verde non portavano mai a niente. Ma viva le fiducie, viva le fiducie, la decisione. Questo è. Chiudo con il saluto che ci manda sempre il nostro cuoco che ci segue dalla DIG nelle Seychelles. Ogni tanto ci manda dei messaggi come questo: quando sento parlare i politici sono veramente felice di essermi trasferito all'estero. Vabbè, questa è la massima del cuoco della DIG. Dalla DIG ringrazio la senatrice Lucrezia Ricchiuti del Partito Democratico e ringrazio Claudio Velardi. Staremo a vedere oggi come va avanti la questione della fiducia. Dopo il traffico, ma è già con noi, lo voglio salutare, il sindaco di Bologna, Virginio Merola. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, 30 secondi di pazienza, c'è il traffico e poi cercheremo di capire come si dipanerà questa battaglia mediatica, questa insomma, disfida sulla questione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, che ieri è stata lanciata dal ministro Alfano. 24 mattino. Eccoci qui. Allora, come sapete, in Italia i matrimoni tra persone dello stesso sesso sono vietati, ma ci sono persone che li contraggono all'estero, poi quando vengono in Italia chiedono ai propri comuni che vengano registrati nei registri dei comuni stessi, per l'appunto. Bologna, di cui abbiamo il sindaco che saluta ancora, Virginio Merola, è uno di quei comuni dove questo viene fatto, sindaco. Ha sentito Alfano dire verranno cancellate tutte queste iscrizioni e darò ordine ai prefetti di farlo. Perché le ha definito stupida questa circolare del ministro Alfano? Perché è una circolare burocratica che vuole ignorare il semplice fatto, come appunto avete anche detto voi, che esiste un diritto europeo che viene applicato i matrimoni contratti all'estero sono legali, la semplice trascrizione significa avere cognizione in Italia che è avvenuto un matrimonio, magari serve anche per evitare la bigamia, ma di questo non si occupa il nostro ministro. Quindi siamo di fronte al consueto cortocircuito di questo paese, la stragrande maggioranza della popolazione comprende che bisogna riconoscere le unioni civili che non riguardano solo gli omosessuali ma milioni di persone. Noi invece di applicare quello che ci dice anche la Corte Costituzionale oltre all'Europa continuiamo a fare le circolari per evitare di affrontare il problema. E però sindaco, il ragionamento di Alfano è questo: fin tanto che non c'è una legge, e forse ci sarà, forse no, chi lo sa, questa è una questione politica molto dibattuta, che prevede le unioni dello stesso sesso, che cosa succede? Che adesso a Bologna risultano sposate persone dello stesso sesso quando la legge non lo consente. Certo, ecco, io però sono il sindaco di una città concreta fatta da persone in carne e ossa, quindi se vogliono annullare questa roba lo facciano loro, io non lo faccio a nome di Bologna. Qui c'è un tema proprio, guardi, etico prima che politico. Stiamo discriminando delle persone inutilmente. Penso che nelle città normali europee come Bologna non posso accettare che ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B. Però lei fino a dove poi si può spingere? Vedremo la famosa circolare che finalmente mi dicono gli uffici stamattina è arrivata, sì. Valuteremo anche dal punto di vista legale, ma francamente, come sanno tutti, si continua ormai da 20 anni con sentenze dei magistrati, esigenze dei sindaci di riconoscere questi diritti, e io concentrerei l'energia del ministro Alfano sul fatto di avviare l'iter per approvare una legge. Quindi lei dice vedremo quando arriva la circolare, se lo dobbiamo fare non lo facciano in nome di Bologna, però certo, dal punto di vista di farlo, lo faccia il prefetto, chiaro. Così torniamo all'800, il prefetto toglie poteri e responsabilità ai comuni e invece di andare avanti continuiamo ad arretrare. Però mi risulta, sindaco, che il prefetto abbia già mandato una lettera a settembre per chiedere la revoca delle trascrizioni, è così? Certo, io gli ho risposto che non lo facevo. Che non lo faceva. Però dal punto di vista, aiuto a capire gli ascoltatori, cioè se fosse una questione di potere conta di più il Ministero dell'Interno, cioè se volessero impuntarsi li cancellerebbero, lei non può fare molto o può fare qualcosa? Ma guardi, le vie legali sono infinite, io non volevo infilarmi in questa cosa, ripeto, valuteremo. Quello che so per certo è che le persone che hanno trascritto il matrimonio potranno, nel caso di annullamento a tramite circolare, anche loro ricorrere alla magistratura. Tenga conto che la stessa magistratura ha detto che la trascrizione non contrasta con motivi di ordine pubblico, perché nel nostro ordinamento l'anagrafe è soprattutto deve essere compatibile con problemi di ordine pubblico. Allora mi dica quali sono i problemi di ordine pubblico a permettere la trascrizione di questi matrimoni. Questo per esempio è successo a Latina, dove è stata credo cancellata proprio per i motivi di ordine pubblico addotti la prima registrazione tra una coppia omosessuale. Però sindaco, non c'è, come visto che lei ha citato prima la magistratura in Italia, questo utilizzo, come dire, visto che non si legifera su tante tematiche etiche, allora intervengono o i magistrati, o i sindaci, o gli amministratori, con una via, come dire, un po' spingendosi oltre al loro compito. Guardi, è discutibile. Per esempio, le faccio presente che i regolamenti di polizia mortuaria, siccome non esiste una legge, impediscono a persone omosessuali di chiedere di essere tumulate insieme. Capisco che l'argomento non sia allegro, ma immaginiamo le conseguenze per la vita quotidiana di queste persone, che sono come tutte le altre, quindi hanno incidenti familiari e diventano anziani. Quindi stiamo cambiando il regolamento di polizia mortuaria per permettere questo. Voglio dire semplicemente che il costume, la vita di tante persone è cambiato da più di 30 anni in questo paese e noi dobbiamo dare delle risposte. Dovrebbe farlo il Parlamento però. Dovrebbe farlo un Parlamento, io che mi rendo conto di cos'è questo Parlamento, ma c'è stato trovato un compromesso cioè quello di fare almeno delle unioni civili, almeno si faccia questo, si dia una risposta concreta in questo senso. L'ultima questione è politica, secondo lei è una questione, perché Alfano ha fatto questa uscita? Perché appartiene a un partito, Nuovo Centrodestra, considerato vicino, insomma, anche a ambienti eticamente? Ma guardi, purtroppo devo dire di sì, Bastava un capo di gabinetto per fare questa circolare. Tengo conto che, secondo me, ragionando, non è un tema né di destra né di sinistra. La maggioranza degli italiani ha un'opinione diffusa che è ora di adeguarsi, adeguare la nostra democrazia al diritto europeo. Purtroppo ha preso questa posizione, e questa posizione era abbondantemente annunciata da esponenti dell'NCD, di cui il ministro Alfano è il segretario. Io non ne faccio una questione di destra o di sinistra, perché le assicuro che nella vita quotidiana le persone che vogliono le unioni civili o le unioni per gli omosessuali appartengono a qualsiasi schieramento. No, su questo non c'è dubbio, non è che si può tutto semplificare in Italia o di destra o di sinistra, esatto. È una questione che riguarda le persone. Esatto. Va bene, sindaco, io la ringrazio, stiamo a vedere se lei dice vedremo se fare ricorso, mi sembra di capire che c'è anche questa possibilità, ma come comune o come coppie? Le coppie sicuramente, ma adesso leggeremo questa circolare e vedremo come è stata costruita, se ha qualche fondamento legale. È una circolare politica. In teoria una circolare di un ministero dovrebbe essere non politica, ma burocratica. Ma staremo a vedere. La ringrazio, sindaco, per essere stato con noi. Sindaco di Bologna, Virginio Merola, del Partito Democratico. E vorrei chiudere con Marco da Bergamo. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io chiamavo solo per dire questo, cioè che la Costituzione non è che si può invocare un giorno sì e un giorno no. Sì. Gli articoli 29 e 30 parlano molto chiaro e sulla base di quelli ci si deve regolare. Anche ce li riassuma, che adesso la Costituzione a memoria proprio io non è che... Gli articoli 29 e 30 chiaramente... Matrimonio. Dipingono la famiglia fondata sul matrimonio come una famiglia fondata su una coppia. Tra uomo e donna. Ecco. Sì. Una volta detto questo, una volta che la Corte Costituzionale anche di recente ha dichiarato che non si possono fare discipline che equiparino il matrimonio previsto dalla Costituzione al matrimonio tra omosessuali, io penso che qualsiasi atto contrario a questo sia già di per sé illegittimo, a prescindere da quello che dice Alfano. Questo Marco è dibattuto, perché non è così tranchant la questione, se no non ci sarebbe il dibattito e non potrebbero registrare civilmente matrimoni, perché verrebbe da dire queste persone risultano sposate, che ne so, in America e in Italia no, non è una discriminazione? Il discorso è più complesso. Comunque la ringrazio per il suo intervento, con cui concludiamo con Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni, Lorenzo Nespoli in redazione e Peter Bescapè in regia. Potete seguirci anche su Twitter, Alino Mila nel mio profilo, oppure c'è il profilo di 24 Mattino. E ci ritroviamo a che ora? Domani, sempre qui, alle 6.30, anche qualche minuto prima, puntuali su Radio 24. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. ADP, leader mondiale nella gestione del personale. ADP-italia.com. Vi ha presentato 24 Mattino.